cuando pase el desvelado y el coyote manda un grito. Sole triste sul cavallo come un angelo di belle voleva, voleva. Tutti lo chiamano solo desperado, l'uomo che vive nella prateria, a per compagna la malinconia, e di notte lo si sente cantare. Sempre a cavallo va ma senza sella, il cavaliere in cerca d'avventura, lo scorridore che non ha paura, mai nessuno l'ha potuto fermare. Ma questa notte il desperado va, da chi l'ha fatto innamorare, a per compagna la felicità, fa rapire la sua bella e domani la sposerà. Rude come un cowboy e il desperado, timido e disarmato nell'amore, e per la prima volta gli trema il cuore, ma la donna che lo ama lo sa. Chi l'ha fatto innamorare, a per compagna la felicità, fa rapire la sua bella e domani la sposerà. Rude come un cowboy e il desperado, timido e disarmato nell'amore, e per la prima volta gli trema il cuore, ma la donna che lo ama lo sa. Quando passa il desperado il coyote manda un grido,